Anche l'ambasciatrice serve in Italia, ha le valigie già pronte, in attesa del richiamo per consultazioni a Belgrado, dopo il riconoscimento italiano dell'indipendenza del Kosovo previsto per domani. Resterà invece al suo posto, come gli altri colleghi dei paesi che stanno via via riconoscendo lo strappo di Pristina, l'ambasciatore italiano a Belgrado, Alessandro Merola. Unica mossa diplomatica nei loro confronti da parte della Serbia, l'abbassamento del livello delle relazioni con i ministeri serbi. Ed è proprio attorno alle ambasciate che la polizia sta rafforzando in queste ore le misure di sicurezza in vista della manifestazione di protesta indetta a Belgrado contro l'autoproclamata indipendenza del Kosovo. In piazza domani pomeriggio sono attese centinaia di migliaia di persone, qualcuno azzarda a dire 1 milione, e si temono incidenti. In Kosovo intanto oggi sono stati riaperti i punti di confine con la Serbia, teatro ieri di incidenti da parte dei serbo-kosovari di Mitrovica Nord che non li considerano frontiera di Stato. Elena Ragusin, GR24, Il Sole 24 Ore, Belgrado.